Dotti e gli orsacchiotti. Dotti, la draghetta magica, era molto eccitata perché le sue tre nipotine stavano per venire da lei a trascorrere il Natale. Era stata tutto il giorno in cucina a preparare un sacco di manicaretti e aveva un mucchio di pentole e piatti da lavare. Quando ebbe finito di rigovernare, l'acqua del lavandino non voleva scorrere. «Oh no, il tubo di scarico è bloccato!» si lamentò Dotti. Poi ebbe un'idea, aprì la bocca e soffiò nel tubo di scarico una delle sue fiammate speciali. La lingua di fuoco andò giù per le tubature, fece un buco enorme nel pavimento della cucina e schizzò fino dentro una grotta nella montagna magica. Dotti gettò un'occhiata nella caverna attraverso il buco. Tutto quel che riuscì a vedere fu un mucchio di orsacchiotti. «Ehi! Ehi!» gridava Dotti. «Che diavolo vuoi?» fece una voce irata. Era un ognomo, tutto ricoperto di polvere. «Oh, scusa tanto!» cominciò a dire Dotti, ma intanto apparve un altro ognomo. «Chi sei?» «Come, non lo sai? Sono Dotti, la draghetta. Aspetta, ora vengo giù!» Dotti si lasciò scivolare fino dentro la grotta e si guardò intorno. C'erano pile di orsacchiotti e tanti gnomi affaccendatissimi a fabbricarne degli altri. «Che posto è questo?» chiese Dotti all'ognomo arrabbiato con lei. «Questo è il dipartimento orsacchiotti della fabbrica di giocattoli di Babbo Natale. Tutti gli orsacchiotti che Babbo Natale regala ai bambini li facciamo noi. Dobbiamo farne ancora centinaia prima che lui venga a ritirarli e non abbiamo manodopera. Credo proprio di potervi aiutare. Aspettate un momento», disse la draghetta. Sfrecciò nella sua cucina, prese il suo panno magico per i piatti e ritornò alla caverna. Sventolò il panno magico davanti a una pila di orsacchiotti. Quelli saltarono su e cominciarono subito a fabbricare orsacchiotti su orsacchiotti, uguali a loro. Gli gnomi erano stupefatti. «Ora, amici gnomi, mentre gli orsacchiotti si danno da fare, voi dovete venire a casa mia a riposarvi un po'.» «Oh, grazie, Dotti!» disse lo gnomo ex arrabbiato, che non era più arrabbiato per niente. Tutti gli gnomi andarono nella cucina di Dotti, dove mangiarono grosse fette di torta con i piedi appoggiati al camino. Stavano giusto facendo un sonnellino davanti alla televisione quando udirono tonfi e strepiti provenire dalla grotta. Corsero giù a vedere cosa stava succedendo. C'erano orsacchiotti che facevano l'altalena appesi ai lampadari, orsacchiotti che saltavano sugli scaffali, orsacchiotti che si rincorrevano rovesciando tutto quel che trovavano. «Orsacchiotti impertinenti, guardate in che stato vi siete ridotti!» li sgridò Dotti. Si fermarono tutti come per magia guardandosi. Erano tutti polverosi con i fiocchi disfatti. «Babbo Natale non vi regalerà nessun bambino con l'aspetto che avete. Presto, presto, mettetevi in ordine prima che arrivi!» Gli orsacchiotti si aiutarono l'uno con l'altro a ripulirsi e a ordinarsi, mentre gli gnomi li contavano. «Che bellezza! Ora ne abbiamo abbastanza per tutti i bambini!» «Beh, ora vi lascio!» disse Dotti, e mentre se ne andava, vide che gli gnomi si scambiavano uno sguardo d'intesa. E quando i suoi tre nipotini guardarono nella calza la mattina di Natale, cosa credete che trovarono? Da ogni calza spuntava un orsacchiotto dall'aspetto birichino con un bel fiocco annodato al collo.